credo di essermi già spinto troppo avanti nell'indicazione di qualche nome che peraltro era abbastanza scontato dato la professionalità delle persone a cui ho fatto riferimento. Ricordo a tutti i nostri amici della stampa e delle televisioni, che la Costituzione italiana prevede che sia il capo dello Stato a nominare i ministri del governo e che questo lo debba fare su proposta del Presidente del Consiglio. Io non sono ancora Presidente del Consiglio, tra l'altro, e rispetto ciò che la Costituzione riserva alla prima istituzione della Repubblica. Quindi sui nomi garantisco che ci saranno quattro signore, quattro rappresentanti del gentil sesso.